Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Ci ascoltate qui anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Questo è il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 e spesso e volentieri subito dopo il giornale radio delle 13. Quindi ora le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sempre sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Enrico Maria Artale, regista del documentario Saro, che è a Roma a partire da oggi fino all'8 aprile, una serie di proiezioni in luoghi diversi, in sale diverse della città. Enrico, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, buongiorno. Allora, un documentario che intanto ha alle spalle un importante riconoscimento al Festival di Torino. Sì, il documentario è stato presentato lì per la prima volta e ha vinto la sua categoria, che era quella dei documentari italiani, quindi insomma, un premio che ci ha reso molto felici, se non altro perché è un film così personale e travagliato che insomma intanto era già un successo portarlo a qualcuno oltre che agli amici e alla famiglia, insomma. Enrico, come lo racconti a chi ci ascolta? Ma in una frase, io ho incontrato mio padre una volta in tutta la mia vita e ho filmato questo incontro. Questo è sostanzialmente il film. In realtà il film è anche un processo più complesso, per cui diciamo a questo incontro si presuppone un viaggio in Sicilia alla ricerca di questo padre dopo un confronto con familiari e amici su un tema insomma molto delicato per me, di cui non avevo mai parlato. Io proprio ho una storia familiare particolare, per cui fino ai 25 anni non avevo avuto alcun tipo di rapporto con Saro, appunto, e allora però ho deciso che volevo partire, cercare, incontrarlo, conoscerlo e fare tutto questo portandomi dietro una telecamera. E tutto questo è confluito in tante ore di materiale sepolte in un cassetto per anni senza il desiderio di volerle montare sostanzialmente, e poi invece negli ultimi 2 o 3 anni questo desiderio è venuto e siamo arrivati al film. Senti, come ragionate entrambi nel documentario durante questo incontro? La videocamera è un po' uno schermo difensivo e anche una sorta di mediazione tra te e lui. Certo, è un modo, diciamo, mentre io ero in viaggio era un modo per tenere il tutto su un piano pratico e concreto sostanzialmente, no? Io ogni giorno filmavo quello che facevo, i posti in cui andavo, le persone che incontravo, e questo era un modo anche per tenermi occupato e non pensare. Nel momento dell'incontro in cui, diciamo, io ero stato un po' indeciso se portarmi o meno questa telecamera con me al dunque, è diventato qualcosa in più, un fucile inizialmente, come lui l'ha percepito, cioè qualcosa di aggressivo, volendo anche se io mi sentivo un po' in uno stato di diritto, e poi sicuramente uno schermo, o meglio un modo per gestire le emozioni e per comprenderle nel tempo futuro, perché poi quando io sono tornato a rivedere questo materiale ha significato anche insomma rielaborare, comprendere delle cose che allora non erano state chiarissime, insomma. Quindi ecco, è stato tutto un processo psicologico e terapeutico, potremmo dire. Senti, proprio a proposito di videocamera, all'inizio del documentario c'è la citazione di un cineasta a proposito di questo mezzo. Sì, c'è una citazione di Kiarostami, anche ironica tra l'altro, che io ho scelto fondamentalmente perché lui era un po' uno dei miei nomi tutelari ai tempi in cui ho girato questo film. Io avevo 25 anni quando ho girato questo film, ero appena uscito dalla facoltà di filosofia e non avevo ancora fatto nulla, diciamo, a livello cinematografico. Kiarostami era un po' uno dei miei punti di riferimento assoluti e quindi mi sembrava giusto e simpatico ritornare lì in qualche modo per iniziare il film, cioè mettermi nell'ottica del 25enne aspirante regista, quale sono ancora tra l'altro, insomma, per raccontare la storia dal suo punto di vista e non totalmente dal mio. Senti Enrico, è stato un incontro che ha detto tutto e si è concluso in quelle due ore, perché poi come poi capiamo dai titoli di coda. Sì, è stato un incontro che insomma che per me ha significato molto, non tanto per quello che si è detto, anche se ci sono delle cose, dei momenti cruciali insomma nel nostro dialogo, quanto per il risolvere ogni possibile aspettativa, ogni diciamo illusione volendo, no? Cioè è stato verificare concretamente la sostanza di cui era fatta questa persona, ma anche quanto fosse in un certo senso estranea alla mia vita, no? E quindi sembra strano dirlo per un genitore, però è così, e prenderne coscienza è un momento fondamentale nel proprio percorso di crescita. Senti, per quanto riguarda il documentario, c'è questa settimana e passa romana, quali saranno i luoghi? Ricordali a chi ci ascolta. Allora, ieri era la Casa del Cinema e sarà nuovamente lì domenica alle 17:30 e domenica 2 alle 17:30 e domenica 9 alle 17:30, il 9 nella Sala Grande, quindi con più spazio e con una produzione splendida, devo dire. E oggi è all'Apollo 11 alle 21 e anche lunedì sarà all'Apollo 11 alle 21, e invece il 6, il 7 e l'8 aprile è al Chino alle 21:30, quindi tre luoghi diversi, tutti significativi per il cinema documentario. Senti, un'altra domanda, visto che comunque siamo in una fase storica in cui le famiglie monogenitoriali stanno aumentando sempre di più, e com'è l'esperienza da figlio? Ma no, non così terribile, sì, anzi sì. Diciamo, io credo di essere stato fortunato comunque, cioè sono cresciuto bene, ho dei ricordi molto belli, molto divertenti e travagliati della mia adolescenza, ma positivi. In fondo per me diciamo l'assenza quasi assoluta di questa figura paterna probabilmente è stato meglio che una presenza saltuaria, illusoria, diciamo un po' ingannevole, che vedo che hanno avuto magari tanti amici o amiche, insomma. Però in ogni caso io credo che cioè tutte queste forme moderne, chiamiamole così, di famiglie vanno benissimo. La cosa che si deve cercare di evitare è appunto, cioè, purché siano improntate su una sincerità emotiva, anche vedendosi poco, anche non vedendosi mai. In fondo con me i miei genitori entrambi, nella differenza assoluta, chi nella presenza totale e chi nella stessa, sono stati comunque sinceri, e quindi io credo di essere cresciuto con un contatto con la realtà. Il problema è quando ci sono delle figure un po' fantasmatiche che ti fanno perdere il contatto con la realtà. Enrico, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Potete cercare Saro su Facebook, c'è una pagina apposta, o potete anche cercare me, e poi insomma in questi giorni metteremo un po' di stampa, e più che altro perché speriamo che dopo Roma, probabilmente subito dopo l'estate, ci sarà un tour anche nel resto d'Italia, insomma, quindi benissimo, per portare questo film un po' ovunque. È un film diciamo difficile per una distribuzione tradizionale, però in realtà è estremamente emotivo e coinvolgente per tutti quelli che l'hanno visto, quindi è un film insomma che può dire tanto. Un abbraccio e risentirci presto. A presto, ciao. Enrico Maria Artale, regista del documentario Saro, che sarà a Roma in diverse sale da oggi all'8 aprile. Giulia Santini di Officine Ubu sulla distribuzione del film Il Viaggio, The Journey, in uscita in sala oggi giovedì 30 marzo. Giulia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno. Allora, per chi ci ascolta, racconta un po' di cosa si parla in questo film. Allora, questo film diciamo che prende, si basa su una storia vera, su un fatto realmente accaduto durante gli accordi di pace del 2006 di St. Andrews, in cui erano riuniti i due schieramenti opposti dell'Irlanda del Nord, per cui Ian Paisley del Partito Unionista e Martin McGuinness del Sinn Féin. Durante questi accordi c'è un momento di stallo e Ian Paisley è costretto a tornare a Belfast in occasione del suo 50° anniversario di matrimonio. Martin McGuinness, non si sa per quale motivo, decide di viaggiare assieme a lui e tornare a Belfast insieme a lui. Sta di fatto che dopo questa esperienza, non si sa che cosa si siano detti, però sta di fatto che sono finalmente riusciti ad raggiungere un accordo e a siglare finalmente la pace. Ecco, diciamo che il regista Nick Hem prende questo materiale della storia con la S maiuscola e ne fa un road movie politico in cui i due protagonisti costretti a viaggiare assieme nello stesso veicolo attraverso vari imprevisti e situazioni particolari riescono finalmente a rompere il ghiaccio e a parlarsi e a superare le divergenze. Diciamo che teoricamente fanno questo viaggio insieme e l'altro decide di aggregarsi per motivi di sicurezza, perché così non sarebbe successo niente all'automobile, insomma, questo nel tragitto. Sì, diciamo che... Però è anche stata un'occasione politica di stare soli per un lasso di tempo e guardarsi a quattro occhi. Esattamente, esattamente. Infatti c'è appunto questa legge non scritta per i leader dell'Irlanda del Nord, in cui sono, diciamo che sarebbe opportuno per loro viaggiare sempre insieme per evitare attentati alla vita, ecco. Senti, allora che ci dici intanto della regia? È una regia che già conosciamo in Italia? Allora, Nick Hem ha girato altri film, tra cui The Hall e Killing Bono, che sono stati distribuiti in Italia. Okay. E voi come avete incontrato questo film? Allora, il film è passato alla mostra del cinema di Venezia. E diciamo che ci ha convinto per due elementi fondamentali. Sì. Le grandi interpretazioni degli attori, che appunto sono Timothy Spall nei panni di Ian Paisley e Cole Meaney nei panni di Martin McGuinness, e in più c'è un ruolo molto importante di John Hart, che è in una delle sue ultime apparizioni sullo schermo, purtroppo. E un secondo elemento che ci ha molto colpito è la forza della storia, perché in un momento in cui, diciamo, sia la politica che il terrorismo cercano di polarizzare sempre più le divisioni, questo film invece celebra la potenza del dialogo. Ed è anche un messaggio in questo momento in cui abbiamo anche la Brexit, che sembra poter mettere in realtà in pericolo anche questa pace raggiunta con così tanta fatica. Io sottolineo anche il fatto, insomma, come giustamente facevi notare, che c'è quanto di meglio possa offrire il mondo attoriale britannico in scena. Esatto. Esattamente, ci sono alcuni dei massimi attori di questa tradizione, devo dire. Sì. Senti, per quanto riguarda la distribuzione, come avete pensato appunto di portarlo in Italia e distribuirlo? E poi ti chiedo anche in quante sale è possibile vederlo. Ma allora, il film sarà in sala da oggi e sarà in 55 sale, quindi insomma c'è una buona copertura su tutto il territorio. Bene, allora i riferimenti a questo punto ti chiedo sul web per Officine Ubu, per saperne di più, ci lasci tutto? Allora, sì, potete avere tutte le informazioni sul nostro sito www.officineubu.com, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Twitter e YouTube. Benissimo. Allora, Giulia, alle prossime novità, un abbraccio. Grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Giulia Saltini di Officine Ubu sulla distribuzione del film Il Viaggio, The Journey, in uscita in sala oggi giovedì 30 marzo. Numeri importanti, parliamo della 10ª edizione delle Voci dell'Inchiesta, ne parliamo con Riccardo Costantini per questa iniziativa al Cinema Zero di Pordenone dal 5 al 9 aprile prossimi. Riccardo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ben ritrovati anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, per chi non lo conoscesse, quali sono le caratteristiche di questo festival? Allora, il festival propone una selezione di quello che chiamiamo cinema del reale o più semplicemente documentario fra il meglio dell'annata e dai migliori festival del pianeta. Buona parte dei documentari che vengono presentati a Pordenone dal 5 al 9 aprile sono in anteprima nazionale, quest'anno saranno più di 20 le anteprime, e intendiamo il documentario come uno strumento per aggiornarsi sulla società, sull'attualità e, perché no, trasformare magari alcuni nostri comportamenti che siano anche semplicemente la conoscenza di un determinato problema. Semplifico, in 5 giorni vedremo cose che ci raccontano come sta il nostro ambiente circostante, parleremo ovviamente dei lati oscuri del nostro paese, parleremo di ISIS, di terrorismo, insomma tutti i temi dell'attualità raccontati grazie a documentari di ottima fattura fatti spesso da registi giovanissimi. Quanti saranno i documentari proposti? La selezione di circa 40 film per altrettanti ospiti, ogni film è accompagnato dal regista o da persone competenti sui temi. Faccio un esempio, presenteremo l'anteprima nazionale di Nowhere to Hide, che è un film che racconta una fuga obbligata dall'Iraq, ormai stretto nella morsa dell'ISIS, e per approfondire i temi del film ci sarà con noi Alessandro Orsini, che è un professore che insegna sociologia del terrorismo alla LUIS a Milano e che ha pubblicato un volume monster per Rizzoli che si chiama proprio ISIS, e quindi ci aiuterà a capire a che punto è la questione oggi e come una storia come quella di Nowhere to Hide, che è molto personale, una famiglia che parte in fuga e che a un certo punto proprio non ha un punto dove nascondersi, è una storia che può parlare a molti e che può raccontare molto del tema a chi lo conosce meno, e siamo convinti che l'ISIS sia un continente da esplorare, purtroppo. Mm-hmm. Senti Riccardo, è suddivisa per sezioni, come è strutturato le Voci dell'Inchiesta? Allora, la tradizione della manifestazione, che compie quest'anno appunto 10 anni, come avete giustamente ricordato, e siamo fieri fra l'altro di essere arrivati a questo traguardo occupandoci di Inchiesta, non si sa mai dove si va a finire, e storicamente era suddivisa per temi o sezioni, insomma, che programmavamo nel tempo. Ci siamo accorti in realtà che è più efficace lasciare emergere i temi selezionando i migliori documentari. Abbiamo inaugurato un processo a ritroso, abbiamo preselezionato 160 documentari e siamo arrivati poi appunto alla line-up di circa 40. Da questi emergono alcuni temi di urgenza che sono un po' più ricorrenti o che sono collegati. Parleremo in particolare di fare politica in un paese dove, come il nostro, in questo momento il Movimento 5 Stelle ha grandissima forza, grandissima presa sul pubblico. Cercheremo di capire perché in altri paesi, con anche titoli diversi, insomma documentari diversi, si comincia invece a fare politica fin da giovanissimi. Parleremo in particolare del caso di un attivista di estrema destra 14enne, già con incarichi di rappresentanza in Svezia, e paragoneremo quindi il nostro contesto nazionale a altre situazioni che possono essere di modello o di confronto, senza ovviamente tirare una tesi finale. Parleremo appunto di terrorismo di ISIS, che abbiamo già ricordato, e obbligatoriamente dobbiamo parlare anche di lavoro, cioè il lavoro che c'è ma che più probabilmente non c'è e segnalo in particolare, ospiteremo un film francese campione di incassi, che per essere un documentario è un dato assolutamente eccezionale, che si chiama Merci Patron, cioè letteralmente grazie padrone, dove François Ruffin, che è una sorta di Michael Moore in salsa francese, forse anche più dinamico e ficcante di Michael Moore, se si può, e cerca di riscattare una famiglia che è stata colpita dalla delocalizzazione di una multinazionale e riesce alla fine del film a fargli avere un indennizzo da parte del patron diretto di questa multinazionale enorme, una sorta di lotta di Davide contro Golia, in questo caso vincente. Non solo questi temi, perché in realtà poi il festival cerca anche di bilanciare il carico emotivo, spesso film molto impegnati, con film biografici o film che ci raccontano storie particolarmente affascinanti. Ne cito uno su tutti, che è La Ciana, che è il film di chiusura del festival di domenica 9 aprile in anteprima nazionale. La Ciana è la più grande ballerina di flamenco mai esistita ed è finita, come succede spesso per questi artisti, nel dimenticatoio. La sua storia è una storia di anche di violenze familiari, è una storia di, quindi, di spettacolo, di grande successo e anche però di problemi personali. La vedremo ballare, la vedremo riscattare questo suo ruolo. La Ciana è vivente e ha oltre 80 anni e muoverà anche alcuni passi, per cui insomma è un momento per chi ama la danza, per chi ama la vita d'arte, la passione per l'arte, in cui riscoprire un artista che l'Europa ha dimenticato, che invece va ricordata. Ecco, proprio in questo senso, Riccardo, volevo chiederti se è prevista anche la presenza di autori e momenti di incontro. Sì, praticamente tutti i film sono accompagnati dal regista. Spesso ovviamente sono dei nomi che non sono conosciuti al largo pubblico. Quella che facciamo è una scommessa con il pubblico, perché riteniamo che i filmmaker che verranno a presentare i loro film saranno registi dei quali si parlerà sicuramente. Faccio un esempio: presenteremo un film molto delicato su un ragazzo con sindrome di Down, che si intitola The Grown Ups e che è una regista cilena che si chiama Maite Alberdi. E poco dopo il nostro festival, notizia proprio di pochi giorni fa, il film è stato selezionato come film di apertura a Vision Durel, il festival di Nihon, che è il più prestigioso festival d'Europa di documentario. Se avessimo detto 5 giorni fa al pubblico più vasto, venite a conoscere Maite Alberdi e la sua opera, sarebbe stato complicato. Invece c'è proprio necessità di scoprire questi registi emergenti, che spesso sono preparatissimi. Per ospiti invece un po' più noti, tutta la prima giornata, che è dedicata al mondo dell'informazione, avrà come momento clou la serata inaugurale dedicata a Giuseppe Gio Marrazzo, un grandissimo giornalista d'inchiesta italiano, anche questo un po' dimenticato, e con noi ci sarà, per ricordarlo, Sandro Ruotolo, lo storico baffone e uomo con gli occhiali e baffi, braccio destro di Santoro, giornalista veramente della schiena dritta, che arriverà a Pordenone per raccontarci cosa significa fare giornalismo e perché Marrazzo è ancora un modello. Con lui ci saranno anche i figli di Marrazzo e Maurizio Brarucci, che ci rapporterà la realtà di Napoli, spesso raccontata da Giuseppe Gio Marrazzo con notevole partecipazione. Ci racconterà come oggi, essendo Brarucci poi persona che è stata dietro la scrittura di Gomorra, Rigarrone e altre cose simili. Ci sarà Marcello Sorgi, che è ex direttore del TG1, è molto noto anche perché fa la nota politica di Agorà ogni mattina, scrive per La Stampa, e per la presentazione della Corsa dell'Ora, un film delizioso del quale abbiamo bisogno, perché ricostruisce con grande equilibrio la storia del quotidiano palermitano, appunto L'Ora, il film è di Antonio Bellia, che sarà anche lui presente, e ci racconta cosa significa fare informazione in un territorio di mafia, cosa è significato per Palermo avere un giornale dove scrivevano tutti i più grandi della letteratura, ovviamente siciliani, e dove pubblicava le sue storiche foto Letizia Battaglia. Quindi davvero ce n'è per tutti i gusti. Riccardo, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, facilissimo, su Facebook basta cercare Le Voci dell'Inchiesta, la pagina è in continuo aggiornamento, si possono vedere anche i trailer, e poi ovviamente il sito delle voci è www.voci-inchiesta.it, si può trovare molto materiale di approfondimento e si può prendere anche l'abbonamento alla manifestazione, che garantisce di entrare a tutti gli eventi, ed è ovviamente una cosa che caldeggiamo visto il grande afflusso di pubblico. Bene, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Un abbraccio a voi e grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao. Riccardo Costantini, della 10ª edizione delle Voci dell'Inchiesta al Cinema Zero di Pordenone dal 5 al 9 aprile. Con Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione per parlare del film Dall'altra parte di Zrinko Ogresta, in uscita in sala oggi giovedì 30 marzo, film al quale abbiamo dedicato anche la foto di copertina della puntata di questa settimana con una foto di scena. Paolo, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Per chi ci ascolta, raccontiamo il film. Sì, allora intanto vi ringrazio per la foto di copertina, ci fa molto piacere. Dall'altra parte è un titolo che è una traduzione dall'originale, che sono estranee, e che in italiano tra l'altro ha una pregnanza importante, perché parliamo di un'altra parte nel senso di personaggio, parliamo di un'altra parte nel senso di un altro lato del conflitto, ma il film è costruito da un punto di vista narrativo come un disvelamento continuo di novità e sorprese, ma è un rapporto prevalentemente tra due personaggi, con dei personaggi di contorno anche molto importanti, ma la guida è di una donna che è Vesna, la protagonista, con una grandissima attrice, Ksenia Marinkovic, duetta con Lazar Ristovskij, Zarco, la loro relazione è una relazione di marito e moglie che non si vedono da anni, perché di mezzo c'è stata la guerra e lui è andato poi a combattere dalla parte serba e lei è rimasta nella parte croata. Però questo ritorno di fiamma, questo ritorno di rapporto col marito apre questioni legate anche all'attualità, cioè il passato. Il marito è stato all'AIA, è stato giudicato come criminale di guerra, ma il passato che ritorna, ma ritorna anche l'amore. Allora la riconciliazione è possibile la comprensione, come si fa a fare i conti col passato? Ecco, tutti questi sono temi che sono raccontati in una narrazione, appunto, come dicevo prima, di disvelamento, e quindi anche appassionante. Cioè la capacità umanistica del racconto di Zrinko Ogresta e Matematicic, il suo sceneggiatore, che è anche il suo musicista, riescono a renderci umana questa storia, e il suo disvelamento ricorda un po' i disvelamenti dei film di Mike Lee, che sono molto cari a quelli che seguono il cinema. Questo tipo di narrazione, anche se vogliamo a scatole che si aprono una dietro l'altra, è molto interessante e molto pieno di tensione. In soli 80 minuti c'è tutto questo condensato, che credo che poi resterà indimenticabile nella memoria degli spettatori, perché alla fine del film si rimane molto colpiti, molto presi, molto commossi anche, nel senso migliore del termine e più alto del termine, rispetto a questi personaggi a cui ci si sente sempre più vicini, indipendentemente da quello che hanno fatto. E poi ci sono i figli, che sono la vera eredità di questo passato, e come vivere l'attualità avendo questo passato. Per alcuni è molto pesante e molto difficile. Una cosa che dice il regista è bisogna capire come perdonare senza ferire nessuno, e questa è una cosa molto molto importante su cui riflettere. In questo senso i figli sembrano i personaggi più inflessibili rispetto alla memoria e al ruolo del padre. Sì, perché avere un padre dal passato così ingombrante crea problemi nell'attualità. La figlia non riesce a trovare lavoro, al di là delle difficoltà del mercato, e che proprio quel cognome, quel passato che riaffiora, che alla fine tutti conoscono anche se cerca di nascondere il nome, eccetera, comunque è pesante, perché non si riesce a perdonare, almeno ai figli le colpe dei padri. Sì. E questo è raccontato, siamo adesso a 25 anni dall'assedio Sarajevo, quindi da quella guerra di cui al giorno d'oggi questi personaggi portano ancora appunto queste scorie, queste ferite, ma lo sceneggiatore insieme al regista sono riusciti a creare una storia che parte da quelle radici, ma che parla di qualsiasi tipo di conflitto, forse anche un conflitto privato. Cioè l'universalità di questo tipo di rapporti umani è quello che poi secondo me creerà l'empatia più forte in qualsiasi spettatore, ed anche negli spettatori italiani. Paolo, che ne sappiamo della filmografia di Ogresta? Ma Ogresta ha iniziato, è stato scoperto a Firenze negli anni Ottanta, quando ancora rappresentava la Jugoslavia, con un cortometraggio, il suo cortometraggio di diploma, ma io stesso sono riuscito a selezionarlo una quindicina di anni fa col suo film Here, che vuol dire qui, e poi pian piano ha realizzato altri 3-4 lungometraggi. Cioè non è un autore molto prolifico, è uno di quegli autori che soppesa molto la sua produzione, e in 30 anni di carriera ha realizzato non più di 5 lungometraggi, però sono tutti molto molto pensati. Ecco, qui tra l'altro la sua maturità cinematografica si vede tutta, perché anche abbiamo parlato del tema della narrazione, ma dal punto di vista cinematografico questo è un film di altissimo livello, è un film tutto girato in piano sequenza, ma diversi piani sequenza montati, non il piano sequenza unico, ma ogni sequenza è un piano sequenza. Le inquadrature sono studiate in maniera tale che i personaggi sono anche in qualche modo visti da angolazioni particolari, e quindi da un punto di vista anche della geometria dell'inquadratura e della messa in scena c'è quella particolarità dello sguardo che anche la narrazione e la sceneggiatura porta. E questo perché, pur avendo realizzato pochi lungometraggi in un arco di tempo relativamente ampio, però ha una tale maturità il regista che la si vede tutta in questo film, che ha vinto la menzione speciale Europa Cinema a Berlino 2016, che poi ha vinto sia il festival principale croato che il festival principale serbo, e quindi questa è anche una testimonianza importantissima di come sia questa coproduzione, tra l'altro serbo-croata, molto sentita da tutti, e quindi questa voglia comunque di superare con tutte le difficoltà i conflitti sia sentita. Però ripeto, non è solo una questione serbo-croata, è una questione che ci riguarda tutti, perché questo tipo di conflittualità possono esserci in ciascuno di noi in qualunque situazione. Quindi per questo consiglio l'attenzione al film a tutti i particolari, e il film prende subito lo spettatore, e questa è una cosa che poi rimane anche dopo molto tempo che lo si è visto. Paolo, dove lo avete visto e poi come avete deciso la distribuzione italiana? Beh, come dicevo, l'ho visto, ha vinto a Berlino il premio menzione speciale Europa Cinema, che è una menzione data da esercenti, quindi questo è molto importante. Sì. Quindi io l'ho visto a Berlino quando la sezione Panorama ha avuto la sua prima mondiale. Tra l'altro Lazare Stoschi, oltre ad essere il grande attore che è, io lo conosco anche personalmente, anche perché lui ha lavorato anche in Italia, un Salvatore Mereo, eccetera, e quindi anche l'amicizia con lui mi ha portato inizialmente a vedere il film, e sono rimasto colpito, emozionato, commosso da questo film, e per me questi sono elementi, come cinematografia di distribuzione, sono elementi importantissimi, cioè riuscire a portare al pubblico qualcosa che sorprenda, che commuova, che emozioni, e quindi abbiamo per questo deciso di seguirlo. Dopodiché ha vinto questi altri premi ed è stato anche in concorso a Trieste all'Alpe Adria quest'anno a gennaio, e quindi concluso il suo giro festivaliero adesso lo riusciamo a far uscire nelle sale italiane, e questo è un grande piacere. In quante sale sarà? Dunque, partiamo col primo weekend in 10 sale, e questo è lo standard di questo tipo di distribuzione, partendo da Roma, Milano, Padova, Campobasso, che è molto importante perché nel Molise c'è una minoranza croata, Firenze, Torino, Catania, ecco le principali capozona, ma naturalmente contiamo di uscire a Trieste e usciremo anche a Trento e poi Verona e successivamente altre Cagliari, altre città, ma quello che è importante è durare nel tempo, cioè questo tipo di distribuzione deve partire con le principali città capozona, ma poi deve durare nel tempo e crescere, e questo abbiamo fatto anche con gli altri film, per cui è una cosa che io dico sempre quando parlo della vostra trasmissione, ma posso testimoniare, i fatti lo dimostrano, è effettivamente così. Cioè abbiamo un film che appena apro gli occhi che dopo un anno è ancora in sala, quindi questo tipo di distribuzione è così ed è molto importante che sia così. C'è anche la novità che nelle zone dove comunque non esce il film, nel senso né adesso né nelle prossime settimane, è possibile vederlo nella sala virtuale cinemap.net, che è anche una novità importante per dare l'opportunità a tutto il pubblico italiano, se vuole, di vedere il film già da adesso. Paolo, ci lasci tutti i riferimenti web per Cineclub Internazionale Distribuzione? Senz'altro, c'è la pagina Facebook che è facebook.com/cineclubincdistribuzione, poi cineclubinternazionale.eu che è il sito web dove in entrambe le pagine, in entrambi i siti si trovano tutte le informazioni e gli aggiornamenti anche in tempo reale delle uscite. Un abbraccio e a risentirci presto, Paolo. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi. Paolo Minuto di Cineclub Internazionale Distribuzione sul film Dall'altra parte di Zrinko Ogresta, in uscita in sala oggi giovedì 30 marzo. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale Trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In collegamento con Suranga Katugampala che è in uscita oggi con un film che si intitola Per un figlio, oggi giovedì 30 marzo. Suranga, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie mille. Allora, per chi è all'ascolto, di cosa parla il tuo film? Guarda, questo film parla praticamente di un rapporto tra una madre e un figlio, e all'interno si parla anche di un conflitto culturale, di una ricerca di un'identità, anche di un senso di appartenenza, di una nuova cittadinanza. Quindi si parla intanto di un rapporto madre-figlio, e attraverso questo rapporto si cerca di esplorare anche questi argomenti di cui ho accennato prima. Senti, da dove nasce l'esigenza di questo film? Ma l'esigenza nasce perché si avverte, si sente proprio l'urgenza di raccontare da altri punti di vista, raccontare delle figure, delle persone che sono in Italia, che sono dei cittadini nuovi, ma raccontarli con degli sguardi diversi, meno stereotipati. Quindi l'urgenza è proprio di dire che ci siamo, c'è gente in qualche modo nuova, dei cittadini nuovi che hanno voglia di raccontare il paese, quindi l'Italia, dal loro punto di vista. E questo è un'urgenza. Quindi proprio da questa urgenza che nasce il film. Mm-hmm. Senti, a partire dagli attori e dalle attrici coinvolti nel tuo progetto, si sono sentiti rappresentati in questo tuo lavoro? Sì, ho coinvolto attori, un'attrice professionista, ma anche attori non professionisti che sono nati a Verona o sono venuti dalla Sri Lanka, attraverso proprio non professionisti, perché in qualche modo desideravo che mettessero qualcosa di loro nel film, una loro esperienza o qualcosa che hanno sentito. Quindi ho mischiato queste due cose, quindi la partecipazione è stata molto alta, ma anche sostenuta. Il film in qualche modo se esiste, esiste anche grazie a loro, grazie al loro sostegno, perché come sai, fare un film, anche un'opera prima, un film indipendente, è molto molto difficile, e quindi in qualche modo il grande sostegno è arrivato proprio dalla comunità di persone di diversa origine, e per comunità non intendo dire i sri lanchesi, ma persone che si sono legate al film, al suo processo creativo, di diversa provenienza, veronesi, a partire dalla Lestinia, quindi dai monti di Verona, fino ad arrivare alle persone che vivono a Verona da molti anni, di provenienza sri lanchese. Quindi è stato un film proprio fatto grazie a questo sostegno. Senti, come vive la comunità e questa sua dimensione in Italia? Guarda, a me la parola comunità non piace, perché è una parola vecchia, perché okay, si cerca sempre di chiudere all'interno di un immaginario un gruppo di persone. Invece l'idea è proprio di uscire dalla comunità, di creare una situazione omogenea, di mischiare, di mescolare, di contaminarci e di contaminare. È proprio questo l'obiettivo, perché non è più una questione di persone che appartengono a un paese lontano, no, sono cittadini nuovi, sono italiani nuovi, certo. E sono persone che sono qui da anni, persone che non se ne andranno da qui per la tristezza di qualcuno magari, sono qui, hanno messo radici qui, E questo è una cosa molto importante da riconoscere, ma importante perché è importante per il paese, per il presente del paese, per il futuro del paese, proprio questa cosa di riconoscere. Quindi continuare forse a rilegare all'interno di certe parole diventa ormai riduttivo. Certo. Quindi, però al di là di questo, diciamo, rispondendo alla tua domanda, la partecipazione dei vari gruppi è stata veramente alta. Il film ha trovato nuovi alleati durante il suo processo creativo e grazie a loro che il film esiste, grazie anche alla loro urgenza di contribuire a questo film. Quindi in qualche modo possiamo dire che il film è un prodotto collettivo. Bene. Senti, Suranga, in quante sale sarà da oggi? Il film esce da oggi in varie sale, in giro per l'Italia, da Milano fino ad arrivare a Palermo. Almeno in 15 città esce il film, e anche il suo percorso distributivo penso sia interessante, in senso che noi portiamo il film in giro per l'Italia cercando anche di coinvolgere, cercando di portare in sala questi cittadini nuovi di cui parlavamo. E quindi di dire anche è un atto politico in qualche modo la partecipazione e di venire a guardare il film, è proprio un atto di dire ci siamo anche noi, andiamo al cinema anche noi, guardiamo un film anche noi, siamo degli spettatori che la distribuzione italiana deve tener conto. Quindi in qualche modo è proprio questa anche l'urgenza, e andiamo in giro per l'Italia portando il film agli italiani ma anche alle persone di altra provenienza, e parliamo del film perché è un film che in qualche modo parla di una tematica universale. Quindi ci spostiamo da Milano, da Verona, Firenze, Bologna, Napoli, Roma, Palermo, Catania, Messina, tantissime città in cui c'è un'accoglienza, perché il film, in qualche modo attorno al film ci sono eventi che nascono, quindi in questo modo lo portiamo in giro nelle vere sale. Senti, una curiosità, qual è stato il tuo percorso artistico prima di arrivare a questo lungometraggio? Io ho studiato informatica multimediale, perché studiare cinema per me e per i miei genitori è un lusso. Quindi io ho studiato informatica multimediale, poi ho fatto un master in cinema, però è in qualche modo è l'urgenza sempre di raccontare storie che ho condiviso, che ho sentito, che ho vissuto, quindi vari cortometraggi, quindi fatto proprio da autodidatta fino ad arrivare a fare questo primo lungometraggio. Bene. Senti, in chiusura c'è un sito internet, una pagina Facebook per il tuo film? Certamente, il sito si chiama www.perunfiglio.it, quindi nome del film.it, dove si trovano le proiezioni, le date, anche il racconto di come abbiamo creato il film, il diario di bordo, le nostre urgenze, che cosa abbiamo detto, come abbiamo creato questo film. Insomma, si può assaporare un po' quello che è stato la storia produttiva del film, fino a trovare le date in cui venire a trovarci. Benissimo. Allora, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Suranga Katugampala, regista del film Per un figlio, in uscita in sala oggi giovedì 30 marzo. Eccoci con Federico Russo per parlare della 7ª edizione dello Spiraglio, Film Festival della Salute Mentale al Maxi qui a Roma dal 31 marzo fino al 2 aprile. Federico, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico e saluti a tutti i vostri ascoltatori. Allora, 7ª edizione, però raccontiamo cos'è questo Spiraglio. Ma guarda, nasce come uno strano festival dentro un centro diurno di quei luoghi dove si lavora sulla salute mentale, si fa riabilitazione psichiatrica e si fanno molte attività, spesso con le arti. Qualche anno fa, ormai sono passati 8 anni, pensai che poteva essere interessante cimentarsi nell'organizzazione di un evento che potesse utilizzare il cinema per parlare della salute mentale, visto che secondo me ne parla molto meglio di come ne parliamo noi psichiatri, e ci lanciamo in questa avventura. Ne venne fuori un festival molto partecipato da parte degli autori, e che i primi 2 anni si tenne alla Casa del Cinema, e dopodiché piano piano, invece che estinguerci come spesso accade, ci siamo consolidati, e quest'anno siamo al Maxi. E sono arrivate tantissime opere, siamo molto contenti di esserci e se ci venite a trovare. Benissimo, senti, quanti sono i lavori che ospitate in questa settima edizione? Abbiamo 7 lungometraggi, perché quest'anno c'era molta pressione da parte del lungometraggio, abbiamo fatto molta fatica con il comitato di selezione, e 10 cortometraggi, rispettivamente per i due premi intitolati a due famosi psichiatri, a Fausto Antonucci e a Jorge García Badaracco, e poi qualche evento, come sempre un evento dedicato ai giovani, con la proiezione di Piuma, che è un film che ci è piaciuto moltissimo, e avremo Ron Johnson e Luigi Fedele, e poi una serata più letteraria con Sarnone, Amelio, per parlare dei lacci che intrappolano le famiglie, e poi la serata finale con le premiazioni e Paolo Virzì, che è quest'anno il nostro autore selezionato per il premio della Fondazione Roma Solidale, che diamo tutti gli anni a un autore di cinema che ci è sembrato, diciamo, distinguersi per l'attenzione alla salute mentale, e quest'anno Paolo Virzì vince a mani basse per il suo La pazza gioia, che è veramente un bel lavoro serio, profondo, mm-hmm, e molto direi comunicativo. Senti, è prevista anche la presenza degli autori in momenti di incontro? Guarda, tutti, mi sembra più o meno quest'anno, sì, è abbastanza straordinario, quasi tutti gli autori saranno presenti, accompagneranno le loro opere, e a tutti diamo spazio per presentare le particolarità, diciamo i segreti dei loro film, come hanno fatto a realizzarli, perché talvolta veramente bisogna parlare con gli autori per capire come hanno fatto a entrare nelle stanze di terapia, sì, in modo così discreto da non alterare la situazione reale. Quindi ci saranno molti spazi per incontrare gli autori e capire di più di come si fa a documentare un campo, un mondo così delicato e difficile. Ecco, proprio a questo proposito volevo sapere da te, anche attraverso il cinema, come sta cambiando l'atteggiamento verso la salute mentale. Guarda, il cinema fa un grande lavoro in questo senso, okay, a mio parere, almeno il cinema europeo soprattutto, ma anche il cinema americano, anche se un po' più utilizzando i suoi stereotipi, no, e le sue, diciamo, caratterizzazioni, però sta mettendo al centro l'uomo, no, al di là della sua malattia o della sua sofferenza, e secondo me sta mostrando sempre più chiaramente un disagio che è, lo definirei circolare, un disagio di contesto, di sistema. E sono passati tanti anni da quando Basaglia, no, combatteva per la chiusura dei manicomi, pensando che fosse lì il male, no, che produceva e manteneva la malattia. Dopo tanti anni ci siamo resi conto che non era solo lì, e che spesso i sistemi familiari, gruppali, le istituzioni a loro volta, diciamo, consolidano sofferenze che potrebbero invece essere trattate diversamente. Noi stessi nel mondo della salute mentale spesso funzioniamo in modo più patogeno che curativo, no? E quindi bisogna riflettere su questo, e mi sembra che il cinema è molto attento, anche soprattutto questo cinema indipendente di nicchia, di fatto proprio di uno sguardo, direi, all'interno delle situazioni, non esterno, ecco. Senti, commerciale. In chiusura, Federico, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sulla programmazione? Sì, lo spiraglio filmfestival.org è il sito dove trovate il programma aggiornato, e gira anche sul sito del Maxi o della Fondazione Roma Solidale o di Roma Capitale, che insieme alla Roma 1 partecipano alla realizzazione di questo evento, e tutti gli spazi del Maxi, che utilizziamo come festival, sono gratuiti, ovviamente finché la sala riesce a contenere le persone, ma anche se non si riesce a entrare il Maxi e la sua piazza sono molto accoglienti, mi sembra che il tempo prometta bene. E insomma vi aspettiamo assolutamente per scambiare due parole e vedere film insieme. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Anche a te e a tutti gli ascoltatori di Visionario, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Federico Russo della settima edizione dello Spiraglio, Film Festival della Salute Mentale. E a proposito di salute mentale c'è con noi Eleonora Danco. Buonasera, ciao. Ciao, come ciao. Stai? Sto benissimo. Con cappottone nero, perché? Perché sto scrivendo, quindi mi tengo le mie idee dentro il cappotto, bene, diciamo, bene. Per non disperderle mentre cammino. Senti, ma c'è un appuntamento con te prossimamente qui a Roma, mi sa, vero? Sì, sì, sarò, non posso ancora formalizzare. No, lo diciamo, puoi formalizzare. Che a maggio sarò in scena per due sere all'Angelo Mai, dai miei amici dell'Angelo Mai, che è uno spazio che adoro. Sono passata in realtà a fare un saluto anche a te, ad Ottavia Monicelli, che è una... Che tra poco sentirete, che stimo molto il programma che fate, Tracce di Cinema, è bellissimo, e quindi niente. E sì, ci sarà questo appuntamento, però vorrei dire una cosa riguardo al cinema, che in realtà, no, ragionando e sentendo questa interessante intervista che stavi conducendo, mi domandavo se... Poi, cioè, in fondo anche il cinema americano, un certo tipo di cinema, tratta proprio dei matti. Cioè, in realtà, quanto mi domandavo, quanto siamo invece tutti psichiatrici, no? E quanto ci sono poi i casi clinici. E allora, un cinema che magari si rivolge al caso clinico di per sé è un conto, però un cinema che invece ti fa vedere in realtà come siamo, perché secondo me siamo tutti abbastanza... da questo punto di vista nevrotici, no? Magari che non sfocia nella patologia, però che sfocia, insomma, basta leggere i giornali, no? Sì, ma lì già è cronaca. Ma io ti posso dire che stavo l'altra volta nel supermercato, c'era una signora con il carrello con un carrello piccolo e con il suo corpo piegata per leggere una marca, prendeva tutto lo spazio, io non potevo passare, e in più il suo bacino, diciamo, cadeva proprio dove io dovevo leggere. Per cui gli ho detto: scusi signora, potrebbe mettersi un po' più dritta perché io devo leggere. Ha lanciato il carrello in aria. Sì. Cazzo! Roba da pazzi! Una matta totale. Beh, materiale per i tuoi nuovi lavori. No, insomma, vedo che sono tutti abbastanza stressati, a parte questa sciocchezza che ho detto, però questa è una radio che amo, amo la trasmissione Tracce di Cinema, scusa se lo ripeto, che tra poco partirà. Ottavia Monicelli e te siete un tandem incredibile, quindi viva il cinema e viva Radio Onda Rossa. Bene, con te a presto allora, dai. Con me a presto, e a maggio farò questa cosa all'Angelo Mai, vi saprò dire presto le date, e farò sicuramente uno dei miei cavalli di battaglia che non faccio da anni e che i ragazzi non conoscono, che si chiama Nessuno ci guarda, che tratta poi in qualche modo proprio questa complessità mentale. Bene. Allora un abbraccio, un abbraccio a voi. A presto. A presto. Massimiliano Carboni, co-regista, anzi no, regista, perché continuo a dire co-regista del documentario Padiglione 25, che sarà al Maxi, alla settima edizione del Festival Lo Spiraglio, di cui abbiamo sentito poco fa Federico Russo. La proiezione è per il 31 marzo, dicevo co-regista perché c'è una coautrice, allora mi sono confuso con questo. Allora Massimiliano, abbiamo aperto il file Salute Mentale con Federico Russo, poi c'è stata Eleonora Danco che era qui di passato ed è stata con noi ai microfoni per salutarci, e adesso è la volta del tuo lavoro, che è ospitato allo Spiraglio. Intanto ben ritrovato. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per questo spazio che ci dedicate. Sì, domani sera alle 18 diamo in anteprima Padiglione 25, Diario degli Infermieri, ospitato dal Festival Lo Spiraglio, la settima edizione. Siamo molto contenti di poterlo presentare lì, perché insomma ci sembra un luogo adeguato sia per raccogliere, insomma, per raccogliere e presentare al meglio questo lavoro. Mm-hmm. E qual è il tema del documentario? È la storia storia è un diario, il documentario è tratto da un diario, il diario a firma di 14 infermieri che nel 1975 occuparono e autogestirono uno dei padiglioni del Santa Maria della Pietà, prendendo in carico fino a 30 pazienti. L'obiettivo era la completa dimissione degli ospiti, come venivano definiti nel diario e come venivano definiti in quel momento dagli infermieri. Gli infermieri erano in parte più o meno, diciamo, formati sulle idee basagliane, sicuramente interni ai percorsi di liberazione di discussione di quegli anni. Siamo in pieno battaglia per la riforma socio-sanitaria, non solo sanitaria come poi è stata, e loro erano sicuramente coinvolti sindacalmente e politicamente dentro le dinamiche di quegli anni e riportarono dentro il manicomio una battaglia durissima, perché consideriamo che gli infermieri, visti spesso come il nemico principale, non come l'alleato da parte della, diciamo così, della classe medica in qualche modo influenzata dalle idee basagliane, avevano una responsabilità legale precisa, penale anzi, prendevano in carico il paziente, quindi qualsiasi cosa succedeva sotto la loro, durante il loro turno, ricadeva sulla loro testa e rischiavano procedimenti penali, come infatti in questo caso avvenne. E quindi prendersi la responsabilità di legare i pazienti, non adottare la contenzione mai, rifiutare, aprire le porte, reintrodurre le posate, insomma, tutte cose che possono sembrare piccole e banali, ma che nella dinamica e nella vita quotidiana del manicomio di quegli anni sono invece grandi rivoluzioni, sono state grandi rivoluzioni. Senti, come sei arrivato a questa storia e come poi hai deciso di realizzarne un documentario? Allora, sono arrivato a questa storia grazie a Claudia De Michelis, l'antropologa che è appunto la coautrice del progetto, che lavora da tanti anni su queste tematiche, che ha collaborato alla realizzazione, è una delle curatrici del Museo della Mente del Santa Maria della Pietà, e che, diciamo, con un incontro casuale abbiamo trovato modo di chiacchierare di interessi miei e suoi intorno alle storie che hanno riguardato il Santa Maria della Pietà negli anni fine 60 e 70. Mi ha raccontato di questa esperienza, ho letto il diario, mi sono appassionato e abbiamo cominciato a scrivere. Prima abbiamo scritto una sceneggiatura, quindi doveva essere una fiction, ma il ministero ha detto no, non ci ha dato abbastanza, cioè non ci ha accolto come progetto finanziabile. E quindi in maniera abbastanza determinata abbiamo fatto partire una campagna di crowdfunding, raccogliendo soldi, diciamo, a 5 a 10 euro in giro per l'Italia. Siamo stati ospitati per più di un anno in tutta Italia, questa è stata una bella esperienza, e abbiamo raccolto quello che ci ha permesso di avere il minimo indispensabile per girare. E poi tanta partecipazione e tanto aiuto da parte di ottimi professionisti, sostenuto, insomma, quindi il film è prodotto da noi direttamente, da me e Claudia De Michelis, e da Altera Produzioni, che è una produzione romana che ha sostenuto il progetto, ci ha aiutato nella produzione, nella post-produzione. Senti, come avete strutturato il lavoro? È basato anche su interviste? Di fatto è un racconto diretto di tre degli infermieri che hanno animato questa esperienza e ai quali abbiamo voluto aggiungere la testimonianza di Tommaso Losadio, che è l'ultimo direttore del Santa Maria della Pietà, quello che materialmente l'ha chiuso e quello che poi negli anni Ottanta ha guidato il lungo lavoro per l'apertura dei centri che potevano ospitare i pazienti fuori dal manicomio in giro per il Lazio, e Maria Grazia Giannichedda, che è la presidentessa della Fondazione Franco Basaglia. Quindi diciamo una parte importante del lavoro è dedicato alle interviste. Poi abbiamo avuto la grande fortuna di avere accesso a un archivio fotografico privato molto bello, altrettanta fortuna con l'archivio della Fondazione Basaglia e Ultimo ma non ultimo, l'importante contributo dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, che ci ha messo a disposizione completamente il suo archivio, che noi abbiamo usato sia in maniera propria, quindi utilizzando dei documenti diciamo coerenti con il tema, sia in maniera impropria, cioè forzando parte delle immagini per raccontare gli anni 70 a Roma e quindi riuscire a raccontare. A questo si aggiunge un contributo prezioso che è arrivato in post-produzione, che è quello di Annalisa Corsi, che è un'animatrice molto, molto brava e anche conosciuta, che ci ha regalato fondamentalmente una parte appunto importante del lavoro, con delle animazioni a mio giudizio molto belle. Senti, e per quanto riguarda l'appuntamento di domani, lo ricordiamo, Padiglione 25 sarà alla settima edizione del Film Festival Lo Spiraglio al Maxi domani 31 marzo, e per chi volesse saperne di più ci lasci i riferimenti web, se c'è un sito, una pagina Facebook? Al momento la pagina che più funziona e che ci aiuta di più a far conoscere il progetto è la pagina Padiglione 25, che trovate su Facebook. Benissimo. Alla prossima settimana pubblicheremo lì gli appuntamenti già previsti sia a Roma che in giro per l'Italia, e soprattutto è un progetto che al momento non ha una distribuzione cinematografica, avrà, incrociamo le dita, pare proprio di sì, una distribuzione editoriale, perché abbiamo rieditato il libro e quindi dovrebbe uscire, insomma noi siamo fiduciosi, l'editore dice di sì, dovrebbe uscire il libro più il DVD in distribuzione, però ci teniamo e ci auguriamo che il film venga ospitato, quindi siamo disponibili a organizzare eventi in tutta Italia, insomma a girare con questo progetto a cui teniamo molto. Allora un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, grazie mille, buona giornata. Ciao. Massimiliano Carboni, co-regista del documentario Padiglione 25. Abbiamo in collegamento Monica Stambrini per parlare del suo lavoro, che un cortometraggio che sarà in proiezione al Cine Club de Tour. Ci sei? Pronto? Sì, ci sono, ciao. Eccoci. Intanto ben ritrovata su queste frequenze. E diciamo anche che la proiezione è per domani 31 marzo, ce n'erano state in precedenza da quanto mi fanno sapere dal Detour, che sono andate tutte esaurite e quindi sta andando bene. Monica, per chi ci ascolta, cos'è Queen Kong? Queen Kong è un cortometraggio innanzitutto, quindi corto, di 20 minuti 19, è un film sessualmente esplicito, non a caso, nel senso che poi fa anche parte di un progetto che in Italia si conosce, perché abbiamo chiesto soldi a tutti quanti per tanto tempo, che è quello delle ragazze del porno, che lo ricordo, anche se immagino si sappia, è il progetto di, è un progetto di tante registe che non sono delle registe porno, quindi registe di cinema, di arte, di teatro anche, che ci siamo messe insieme col diciamo comune denominatore, che era quello di voler fare dei film sessualmente espliciti. Ecco, a questo proposito, visto che ne abbiamo parlato proprio in questa trasmissione a più riprese, sì. Sono andata a ricontrollare l'indietro nel tempo, la prima occasione fu nel 2014. Cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo abbiamo fatto delle iniziative fantastiche, bellissime, che sono forse quelle anche che sono state più remunerative di raccolta fondi, perché diciamo che crowdfunding forse in Italia non è che proprio funzioni benissimo ancora, no? Mentre invece, cioè, noi abbiamo avuto moltissimi aiuti, tantissimi appoggi anche da persone proprio che non conoscevamo, che ci mandavano dei soldi dicendo vogliamo sostenervi, no? Quindi in verità siamo state molto sostenute anche così, proprio da persone che non conoscevamo, senza un contatto diretto, diciamo. Però invece la cosa che è stata più funzionale, e lo dico perché insomma sono tempi in cui raccogliere i soldi a volte, no, o anche solo l'entusiasmo per fare i film in questo modo aiuta,

In verità la gente poi esce per andare al cinema, sì. E non è detto, è anche un film corto, anche un film esplicito, cioè anche formati diversi, no? Possono funzionare. L'altra curiosità è rispetto alla prospettiva femminile riguardo al sesso mostrato esplicitamente, ecco, rispetto più nel complesso alla vostra esperienza delle ragazze del porno. Guarda, sul femminile io proprio ogni volta nego l'evidenza, no, femminile no, l'arte non è femminile, non è maschile. E poi però giusto Mario Ciacciotta mi ha bacchettonato l'altro giorno e mi ha fatto un po' così, ecco, insomma, essendo un po' più, andando un po' più a fondo al di là degli stereotipi sia sì femminile che no femminile, credo che le donne abbiano, cioè le donne, poi se ha senso parlare in generale, ma la mia parte donna, diciamo, viene sicuramente fuori magari con un po' più di libertà, di giocosità. So già che sto rompendo uno stereotipo, già mettendo in scena il desiderio della donna, no? Si rompe un po' un cliché del pudore, di quello che non va mostrato, quel cliché culturale, che poi ovviamente tutti ribaltano sempre, però è un cliché culturale. Quindi mi viene da dire che la donna quando si esprime è più facciata. Bella questa. Monica, in chiusura ricordiamo allora la proiezione domani al Cineclub de Tour, domani venerdì 31 marzo, e di King Kong esiste una pagina Facebook, un sito internet? Guarda, il sito internet ce l'hanno chiuso, adesso è un sito di scambisti, comunque esiste una pagina Facebook e anche sulla pagina del de Tour, e comunque c'è la pagina Facebook sia delle ragazze del porno che di King Kong che è dell'evento, ed è domani alle 21, e c'è anche un bar bellissimo, quindi la cosa meravigliosa anche il detour, che poi si sta lì, si chiacchiera, si beve bene. Allora un abbraccio e a risentirci per le prossime novità. Grazie tante. Ciao Monica, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Monica Stambrini, regista del corto King Kong al Cineclub de Tour domani, venerdì 31 marzo. Ritroviamo Lidia Genchi di Nomad Film Distribution per parlare del film The Most Beautiful Day, il giorno più bello, in uscita in sala oggi, giovedì 30 marzo. Lidia, ben ritrovata. Grazie anche a voi, grazie a tutti. Allora, parliamo ora di malattia terminale affrontata con piglio di commedia. Cos'è The Most Beautiful Day, Lidia? Beh, essenzialmente è una commedia, è un film molto divertente che però affronta certo un tema importante come quello del fine della vita, però appunto con i temi della commedia ed è commedia on the road, molto emozionante in una cornice fantastica della Sudafrica, e quindi è, diciamo, la ricerca del giorno più bello prima di morire di due ragazzi, sì, che hanno appunto, a cui è stata diagnosticata una malattia terminale. Però c'è poi anche due risvolti completamente diversi che non sono, appunto, che non sarò qui a svelare perché comunque vorrei che lo vedesse al cinema, e fa di tutto ciò, questo fa del film un qualcosa di veramente singolare e originale. Senti, come hai incontrato questo film, Lidia? Beh, il film l'ho visto a Cannes durante delle proiezioni per il mercato, perché comunque è un film, diciamo, non art house, ma un film per il largo pubblico. Infatti, come tu sai, ha incassato, è stato distribuito dalla Warner in Germania, il paese di origine, e ha incassato ben 15 milioni di euro. Quindi è un film, diciamo, che io ho visto comunque nel mercato di Cannes. Senti, come distribuzione, come l'avete pensata? Beh, la distribuzione, vabbè, a parte i classici canali della distribuzione usuale, però abbiamo fatto leva su una distribuzione capillare, andando a proporre quindi ad incontrare gli esercenti più indipendenti e non solo quelli, insomma, dei grossi circuiti. L'abbiamo fatto un po' su larga scala, infatti usciamo, diciamo, con una quarantina di copie in prima battuta e poi speriamo che si allarghi alla prossima. E questo un po' da un punto di vista tecnico. Poi dal punto di vista della promozione abbiamo fatto leva su molti blogger anche che si occupano del turismo, perché appunto, come ti dicevo, è un road movie con dei paesaggi bellissimi, e quindi insomma abbiamo pensato anche a questo, oltre ad altri aspetti, insomma, tradizionali, le radio, le televisioni, i flyer, insomma, eccetera. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web della Nomad Film per saperne di più sulla uscita di questo film? Certo, vabbè, il sito della Nomad è www.nomadfilm.it e poi potete seguirci sui social, naturalmente, Facebook, Twitter, Instagram, e questi sono i nostri recapiti, diciamo. Non so che cosa, stiamo facendo un grosso lavoro su Facebook, devo dire che ci sta dando buoni risultati e molte soddisfazioni. Il film piace molto, abbiamo fatto anche delle anteprime sia a Roma che a Torino e Bologna, insomma il film è piaciuto molto, è un film divertente ma è ricco di emozioni soprattutto, quindi insomma andatelo a vedere, non ve ne pentirete, vi divertirete. Lidia, un abbraccio, a risentirci per le prossime. Grazie, un abbraccio anche a te. Ciao. A risentirci, ciao. Lidia Genchi di Nomad Film Distribution sul film The Most Beautiful Day, il giorno più bello, in uscita in sala oggi giovedì 30 marzo. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento settimanale di Visionari. Torniamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla trasmissione le trovate sempre sul sito, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni, Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.